gli occhiali sul naso e sfiora la mente. Parla di uomini e donne come solo lei sa, e la camera è bassa e la mano piano piano che scende. Trova la tua tenerezza e la sua verità. Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più. Giulia ti accarezza, Giulia lotta insieme, Giulia parla anche per te. Oh, è Giulia che ti tocca, è Giulia che ti porta via da me. Dove il cammino è deserto, il deserto è confine. Calda la luce degli occhi, ti guiderà. Mentre io dovrei essere il tuo o il suo giustiziere. Scopro la dolce vittoria della sua crudeltà. Giulia ci sa fare, intelligente, Giulia è qualcosa di più. Giulia ti accarezza, accarezza la tua mente.